Ciao a tutti e a tutte, sono del Comitato Besta. Facciamo da tempo dentro al Circolo Guarnelli, dove siamo entrati, con cui collaboriamo, delle presentazioni di libri. Questo mese toccava la presentazione di Wing 2, ma abbiamo deciso assieme all'autore di venirlo a fare qua, cioè portare qui la solidarietà del nostro gruppo. Pensiamo e crediamo molto che uno dei modi di lottare sia anche quello di fare cultura, presentare libri, portare libri. Quando stavamo al Parco delle Besta mandavamo un libro al giorno al sindaco. Mi sembra che abbia avuto dei grandi risultati, ma ne abbiamo mandati circa una quarantina. Non sappiamo neanche dove siano finiti, speriamo che almeno li abbia regalati a qualcuno. E non sicuramente neanche gli assessori l'hanno letto, i suoi collaboratori. E comunque, insomma, era questa l'idea, cioè portare qui dentro questo libro. Siamo molto legati a Wing 2, abbiamo collaborato quando abbiamo fatto un convegno al Cinema Perla. Lui ha aperto in maniera splendida e poetica il nostro convegno, e quindi ci sono anche gli atti e ricordo di quegli interventi. Ma però questo libro è anche un libro che parla di noi, parla tante cose, ci sono tanti modi per leggere questo libro, per vedere di chi sta parlando, parla di tante cose. Sicuramente a me ho sentito che parla anche di noi, delle lotte, delle persone che si uniscono, delle comunità che si formano, che non accettano l'imposizione di chi comanda e di chi detiene il potere, perché è un po' la storia di questa città per come si sta sviluppando. Oggi c'è una grande manifestazione contro i nuovi re, sicuramente anche il nostro principe è abituato a immaginarsi che in questa città non c'è contrapposizione, non c'è possibilità di critica, anzi tutto il confronto che fa con i cittadini in questo momento, come si sta verificando qua, è demandato alla polizia, quindi altre istituzioni, altre forze che poi lui stesso magari prova a criticare. Faccio un esempio: ieri, dopo aver scritto una bella lettera a dei bambini, un suo assessore, però c'era gli stessi giornali, il sindaco si vantava di essere il primo sindaco che sperimentava le zone rosse proposte da Piantedosi, quindi abbiamo un'eccellenza di cui possiamo vantarci. Allora, abbiamo Wuming che se lo devo presentare, oltre che uno scrittore, sceneggiatore, attivista, esperto di geografia, abbiamo portato la bandiera no passante, tutti i militanti contro il passante hanno avuto modo anche di formarsi attraverso i racconti specifici e dettagliati di Giovanni su come si sviluppa, su quelle che erano i progetti, sull'analisi dei documenti che era necessario per fare anche delle azioni di contrasto. Quindi partirei, insomma, un po', chiederei a lui da dove è partita questa idea di questo libro, perché ci ha voluto raccontare questa cosa, perché era importante raccontare questa storia. Sì. Grazie Roberto, grazie a tutti e a tutti. Allora, questo è un libro che sì, penso sia molto adatto a presentare in questo posto, perché è un libro che parla di una comunità che cerca di reagire a due progetti che le vengono calati sulla testa dall'alto, a distanza di 125 anni l'uno dall'altro. Il primo progetto è quello di una grande fabbrica, una cartiera, e del villaggio operaio che ospiterà le maestranze che ci lavoreranno, che viene costruita nel 1868 da un imprenditore, Nazaro Mensa, che si compra un'isola al centro di un fiume, l'Aleri, e sulla sponda di fronte costruisce appunto il villaggio operaio, che poi si chiamerà con il suo cognome unito al nome del fiume, Mensa Aleri. E questo è il primo progetto che, senza chiedere il permesso a nessuno, se non al sindaco del paese per comprare il terreno di proprietà pubblica, cala dall'alto su questo territorio, non ancora su una comunità, perché la comunità ancora non esiste, è dispersa, è un territorio di campagna dove le persone vivono a parecchia distanza le une dalle altre, vivono in casolari di mezzadri, vivono in cascine, e la fabbrica le riunisce appunto nel villaggio operaio per poi trasformarle in lavoratori di fabbrica per poi compiere questa mutazione antropologica da contadini e contadine, da fittavoli e fittavole, mezzadri, braccianti, a operai e operaie di una grande fabbrica come una cartiera. 125 anni dopo, anche un pochino di più, nel 1995 invece la cartiera ormai ha chiuso i battenti, la produzione è stata delocalizzata, è stata portata in Romania perché là produrre la carta costa meno, la cellulosa costa meno, il lavoro costa meno e si può inquinare più facilmente. La cartiera chiude, ci sono un po' di resistenze, un po' di presidi, di scioperi, ma la comunità di mensaleri non è particolarmente abituata alla lotta, o comunque ha dimenticato questo tipo di reazione. Non è tanto abituata, non ce l'ha nel DNA, perché fin dall'inizio, appunto, da quando è stata creata attraverso la costruzione del villaggio operaio, è stata vittima di una specie di incantesimo, una specie di sortilegio narrativo, simbolico, fatto di promesse, fatto di beneficenze, fatto di apparenti privilegi, fatto del racconto da parte dell'imprenditore che ha fondato la cartiera, che ha fondato il villaggio, della possibilità di lavorare per lui senza dover confliggere, senza, mettendo da parte l'odio di classe, mettendo da parte la contrapposizione, vivendo in armonia come in una grande famiglia, di cui ovviamente lui è il padre, che conosce che cos'è il bene per i suoi figli, e lo distribuisce a piene mani, con a vantaggio di tutti, purché appunto nessuno lo contesti. Il motto del villaggio, negli anni in cui i mensa sono i signori e padroni, è "ci pensa mensa". Sono abituati che qualunque problema, qualunque difficoltà viene risolta grazie all'intervento della famiglia di questi imprenditori. E quindi anche nel 1995 non sono riusciti a mettere in piedi una resistenza più concreta di tanto. La fabbrica ha chiuso e il villaggio si interroga su quale sarà il suo futuro. È un luogo che è abituato a immaginarsi come fondato sul lavoro, perché effettivamente è stato creato per questo. Tutto è stato creato in funzione della fabbrica mensaleri, anche i luoghi di riposo, anche i luoghi di ritrovo, anche la scuola, anche la chiesa, il dopolavoro, tutto è in funzione dell'attività produttiva. Anche la scuola, in fondo, è stata creata dal fondatore per formare operai, per formare persone che poi andassero a lavorare nella cartiera, non tanto persone libere di scegliersi un futuro grazie all'educazione che hanno ricevuto, ma pronte a varcare i cancelli della cartiera. Il dopolavoro è stato costruito nel villaggio come alternativa alla locanda qualche chilometro più in là, in modo tale che i lavoratori della fabbrica passino il loro tempo libero in un posto comunque controllato, sorvegliato, dove vigono le regole del padrone e dove si consuma secondo le regole del padrone. Anche l'alcol è versato, se ne può consumare la quantità che il padrone ha stabilito, e tutto è in funzione della fabbrica. Nel 95 la fabbrica quindi ha chiuso e il villaggio non sa bene in che direzione andare. Arriva al villaggio un discendente del fondatore, anche lui si chiama Mensa di cognome, si chiama Riniero. I Mensa hanno venduto la fabbrica nel secondo dopoguerra, negli anni 50, quindi è da molto tempo, diciamo, che non sono più i signori di Mensaleri. Molti attribuiscono a questa loro dipartita proprio il lento declino che ha portato alla chiusura della fabbrica, perché in Italia prima o poi un quando c'era lui le cose andavano bene viene pronunciato, no? C'è sempre prima o poi un meccanismo di questo tipo per cui nel ricordo si genera una sorta di nostalgia per il tempo andato e per quando qualcuno appunto pensava alle cose al posto tuo. E questo Riniero Mensa quindi si presenta forte del suo cognome, forte del fatto che appunto ha un legame con il villaggio e propone, anche qui ecco il secondo progetto calato dall'alto, propone una rigenerazione industriale della cartiera. La cartiera nell'Ottocento è stata costruita, nel 1868 è stata costruita tenendo conto anche dell'estetica, tenendo conto di simbologie. È stata costruita quasi per essere il monumento più importante di Mensaleri, quasi la vera cattedrale di Mensaleri. La chiesa è molto più piccola, la fabbrica invece ha una grande ciminiera che può sembrare un campanile, ha grandi spazi, no? È il luogo dove si celebra la religione del lavoro, il rituale del lavoro. Ed è stata costruita appunto anche secondo criteri estetici. Quindi in queste belle architetture Riniero Mensa immagina di piazzare un hotel a 4 stelle, un ristorante con uno chef di fama internazionale, una bella sala convegni, un museo d'arte contemporanea, una minima concessione alla produttività, cioè un laboratorio dove si studino i sistemi per riciclare la carta e per smaltire i rifiuti della produzione della carta, quindi diciamo con una venatura green, e un museo della carta, perché dentro alla fabbrica sono rimasti macchinari molto antichi che possono essere messi in mostra, possono essere fatti funzionare anche, no? Di fronte ai visitatori, chiedendo ai vecchi operai di rimetterli in funzione. E questa diciamo è la scenografia che lui immagina e che chiama Mensaleri 2000. Di fronte a questo progetto la comunità si divide, perché appunto non mi piaceva raccontare una comunità tutta unita, tutta unanime. A me piace raccontare il conflitto, le fratture anche nelle comunità che poi cercano di organizzarsi per lottare. La comunità si spacca, qualcuno stende il tappeto rosso a Riniero, qualcun altro ha dei dubbi, ma è la minoranza. Anche perché Riniero ci mette un altro carico da 90 in questo suo progetto, in questa sua ricetta, no? In questa sua ricetta buona per qualunque luogo, non pensata per quel posto lì, no? Come se ne vedono tante anche oggi, magari oggi in una ricetta del genere invece del museo di arte contemporanea forse ci sarebbe un co-working, no? Perché gli ingredienti cambiano, ma queste ricette tutto sommato fanno sempre lo stesso lavoro, cucinano sempre lo stesso piatto. E ci mette un carico da 90, invita una regista teatrale famosa per progetti di teatro di comunità. E appunto la incarica e la paga per gestire un laboratorio dove una ventina di abitanti di Mensaleri si trasformeranno in attori e attrici, andranno sul palco e reciteranno, metteranno in scena la storia del villaggio e in particolare l'età dell'oro del villaggio, quando c'erano i suoi avi, i Mensa, che pensavano a tutto. Il laboratorio comincia, le persone iniziano a rivangare episodi, intervistare nonni e nonne, rimettere in superficie vicende dimenticate, censurate, sepolte, che hanno lasciato piccole tracce nel paesaggio, le si può intuire magari da una conformazione di un prato un po' insolita o da un albero che cresce in un posto imprevisto o da un'ansa del fiume. Sono pochi i dettagli a cui aggrapparsi per riprenderle. Cominciano a interrogarsi su I futuri che sono stati abbandonati, sulle potenzialità che non si sono espresse, sui fantasmi che ancora si aggirano per il villaggio in cerca di giustizia, cominciano a accorgersi della violenza che è stata esercitata in questo villaggio, nonostante sia sempre stata raccontata invece come una storia di armonia, di bontà, come il progetto di un imprenditore illuminato, di un imprenditore progressista che ha costruito un luogo dove vivere bene, dove stare bene, e invece grattando la superficie, grazie al teatro, cominciano a venire fuori le storie di Mensaleri, e grazie al teatro poi appunto quella piccola parte della comunità diventerà sempre più grande e si renderà conto, insomma, che sta per calare su Mensaleri il secondo progetto imposto dall'alto, e cercherà di prendere, insomma, un po' di misure cautelative per provare per una volta invece a cambiare il finale della storia. Grazie. Intanto vi ricordo che ci sono anche qua i libri, chi volesse prendere il libro sono qua appoggiati. Allora, mi vengono in mente due parole che per noi del Comitato Bessa, ma poi si ripercuotono in tutte le lotte ambientali che hanno questa caratteristica, che sono ormai e riqualificazione. Allora, ormai è fatta, cioè ormai non si può più fare niente, perché non avete partecipato al percorso partecipato, perché non vi siete visti, che poi alla fine si scopre in maniera dettagliata che hanno partecipato una percentuale di popolazione irrisoria, veramente irrisoria, selezionata e amica, e riqualificazione, cioè tutti questi progetti sono sempre spacciati come un ammodernamento, un miglioramento, un passo avanti della vita delle persone che vivono quel territorio, perché è fatto per il bene, senza aver ascoltato i cittadini del territorio, è fatto però per il bene, perché sicuramente ci sono degli elementi superiori che lavorano su questo. Noi abbiamo lavorato molto per cercare di smontare questa cosa, cioè ci siamo costruiti un nostro sapere, abbiamo contattato i nostri tecnici, abbiamo costruito un progetto che era altrettanto potente a quello che presentava il comune. Quindi, insomma, tutte le volte che poi nascono queste forme di lotta, poi la cosa importante è anche cosa rimane. Rimane la costruzione di una comunità che è attiva, che non accetta più né oramai né la giustificazione della riqualificazione. La battaglia ambientale ha assunto finalmente anche una dignità più forte, nel senso che viviamo questa parte del territorio, è una parte molto danneggiata dal punto di vista ambientale, sono i dati anche che dà il comune. Abbiamo un'aspettativa di vita agli abitanti di questa zona che è di 3 anni inferiore a quelli della parte nord della città di Bologna, quindi da quartiere a quartiere già questa situazione di inquinamento ci danneggia. La prima struttura fra tutte che impattante, che ha devastato parti di questo quartiere come tante altre parti della città, ma in maniera molto forte, è il passante, che adesso è bloccato, hanno devastato, disboscato, i parchi sono ancora chiusi, e ricordo che ancora questa è una lotta che noi, un tema che ritiriamo fuori, sono ancora chiusi quei parchi che hanno chiuso perché devono fare dei lavori, devono fare il passante, ora non c'è più il passante, forse, non si sa, è sospeso. Ma qui è in sospeso anche forse la costruzione di uno stadio temporaneo, che non sappiamo ancora che fine abbia fatto questo progetto, non si sa, c'era questo. Qui è in costruzione un nuovo palazzetto dello sport, in questa parte, più tutti i lavori che stanno arrivando, compreso anche questo spazio che di per sé, l'altro giorno una consigliera, una pluridecorata, consigliera comunale, regionale, così ha detto, ma per 2 alberi, tutte queste storie per 2 alberi, quanto invece l'importanza, dare importanza alle lotte ambientali è diventato invece strategico per un problema sia di salute ma anche un problema sociale. Quanto è importante la lotta ambientale, visto che insomma sei anche un attivista? Sì, beh, sicuramente è importante e soprattutto non è una contraddizione secondaria, cioè non è qualcosa, diciamo, che ci si può permettere una volta che invece altre questioni più importanti sono state risolte, no? Cioè non è una lotta buona per chi già sta bene e quindi può occuparsi di 2 alberelli, è una lotta che invece incrocia, intreccia e tiene insieme le questioni primarie e fondamentali del nostro tempo, della questioni politiche, questioni di giustizia, questioni di giustizia ambientale, questioni di sperequazione delle risorse, questioni appunto legate anche al fatto di chiamare risorse quelli che invece sono beni comuni, di cui appunto ci dovremmo prendere cura insieme, non considerarli qualcosa da estrarre come se fosse petrolio. Il problema dell'oramai è molto forte. Io tempo fa scrissi un articolo in cui mi ero inventato pure il neologismo del tanto oramaismo, cioè che appunto era questo refrain, questo ritornello di dire tanto ormai non c'è più niente da fare. Penso che invece l'ormai non funzioni mai, e nel caso di Mensaleri ho appunto cercato proprio di raccontare come anche quelle potenzialità che nel passato non si sono espresse e che quindi noi tenderemmo a dare per ormai morte, per ormai finite, perché il passato non si può cambiare, quindi se nel passato ho fatto una scelta che è andata in una direzione e ne ho lasciate da parte delle altre, quindi ho sacrificato diciamo alcune potenzialità, alcuni futuri possibili e invece il corso del tempo è andato in una certa direzione, noi spesso siamo convinti che quelle potenzialità ormai siano morte, appunto ormai siano irrecuperabili. Nel libro ho cercato invece di raccontare come una comunità può rintracciare il filo di quelle potenzialità proprio appunto attraverso l'ingranaggio della memoria, l'ingranaggio collettivo e plurale, non per forza condiviso, plurale della memoria, che riesce a riscoprire queste potenzialità sepolte e a disseppellirle e a farle di nuovo riattivarsi, no? In qualche modo il passato che non è più necessariamente dato, che non è, noi siamo abituati appunto che una cosa successa nel passato ormai è necessaria perché non è più possibile, non è più mutabile, non è più potenziale, e invece penso che ci sia il modo appunto conoscendolo di rianimare il passato in tante forme anche diciamo che passano attraverso l'arte e la cultura. Nel libro è il teatro che riesce a fare questo, no? Proprio perché rimette in scena, quindi torna a dare vita, torna a mettere i corpi, a raccontare con i corpi vicende dimenticate che quindi immediatamente tornano a essere vivibili, tornano a essere agibili. Il teatro, tra l'altro, nella forma in cui è raccontato in Mensaleri, è un teatro le cui prove sono aperte, le persone del villaggio, anche chi non partecipa al laboratorio, può entrare, vedere quello che si sta facendo e fare domande, proporre cambiamenti, addirittura chiedere di sostituirsi ad attori e attrici per giocare in maniera diversa, in base al proprio ricordo, in base alle proprie suggestioni, una certa scena. E questo diventa un meccanismo fortissimo. Io l'ho raccontato perché l'ho visto succedere attraverso lo strumento del teatro dell'oppresso, del teatro forum, che è un... qui l'ho un po' travisato e l'ho chiamato teatro sociocosmico, ma giusto per inventarmi un tipo di teatro. Ma il fondamento è quello. Nel teatro forum, che fu inventato da questo... inventato, insomma, non si inventa mai niente, fu portato all'attenzione delle persone da Augusto Boal, un teatrante brasiliano, si usa proprio il teatro per permettere alla comunità di rivivere degli episodi, in particolare degli episodi di oppressione, e per provare a cambiarli modificando la scena che si mette sul palco, no? Per fare un esempio, si ripete attraverso il teatro un episodio di razzismo sull'autobus. Si osserva la scena e poi le persone che non sono appunto spettatori ma sono spettatori, non è uno spettacolo, è un partecipacolo, possono chiedere di sostituirsi ad alcuni degli attori della scena per cercare di fare in modo che la scena non finisca con una vittima, con un'oppressione razzista, possono impersonare sia la persona che l'ha subita, che magari reagisce, sia le persone intorno, che magari fanno qualcosa e che invece nella situazione originaria non avevano fatto niente. Questo tra l'altro con l'idea che così facendo ci si alleni anche per quando quella scena la vedremo nella realtà, no? Nella misura in cui l'ho vissuta in provetta grazie al teatro, l'ho vissuta diciamo come esperimento grazie al teatro, mi ci sono immedesimato e l'ho provata su di me, l'ho sentita con il corpo davvero. Poi una volta che mi capita veramente sull'autobus quella scena, forse so cosa dire, forse il gesto da fare o che ho visto fare a un altro sulla scena mi viene più semplice, mi viene più immediato, no? E quasi il corpo ha una memoria e la memoria del corpo mi aiuta a fare l'azione più giusta. Quindi ecco, anche l'arte può rivivificare il passato, farlo tornare vivo, anche le parole, no? Spesso un problema del passato è che noi ce lo raccontiamo sempre con le stesse parole, usiamo sempre gli stessi giri di frase, che a volte diventano quasi degli slogan, no? Per dire magari delle cose vere, per rappresentare e descrivere qualcosa che è realmente accaduto e per riportare il significato di qualcosa che è successo, però se lo ripetiamo sempre nello stesso modo, anche la cosa più vera, più giusta, più significativa finisce per perdere sapore, no? Di solito si attribuisce a Goebbels la frase, che non è di Goebbels, prendi una bugia, ripetila 1000 volte e ti sembrerà vera, no? Il problema è che vale anche il contrario, cioè prendi una verità, una cosa giusta, una cosa significativa, ripetila 1000 volte con le stesse parole, nello stesso modo, sempre uguale, e perderà sapore e ti sembrerà quasi finta, ti sembrerà che non dica più niente, che sia una tautologia, una cosa scontata, banale. Cerca di dirla con altre parole, e questo è il compito per esempio della letteratura, cerca di dirlo anche in altre parole ed ecco che ti suonerà di nuovo significativa, ti suonerà di nuovo interessante, avrai fatto un servizio a quel contenuto, a quel significato. Ecco, un po' diciamo è quello che accade nel romanzo di fronte a questi due soprusi, no? Il sopruso iniziale, rispetto al quale però appunto non c'è una comunità preparata, c'è soltanto una donna che abita sull'isola che Nazaro Mensa ha acquistato per costruire la cartiera, abita in una baracca, e Nazaro Mensa appunto è uno di quelli, tu lo dicevi bene prima, no? La riqualificazione spesso si basa su qualcuno che crede di sapere qual è il bene di tutti, ma non chiede a nessuno qual è il bene, no? Che bene vorrebbe, che è il problema da un lato del paternalismo, no? Appunto, e questa è una storia che richiama il paternalismo industriale, ma in parte è un problema che ci riguarda tutti, no? Nessuno è immune dal credere di fare il bene di un'altra persona senza però avergli chiesto proprio nel dettaglio se quella cosa lì è proprio il suo bene. Chiunque ha avuto un ruolo educativo, è stato genitore, ha avuto un ruolo di cura, un ruolo terapeutico, a volte anche la cura, no? Quindi nella totale consapevolezza invece di voler fare del bene, e a volte si può, se non chiedi alla persona ma questo bene che io ho in mente è davvero il tuo, se non ti fermi a fare questa domanda, poi diciamo di buone intenzioni si lastricano le vie dell'inferno. E quindi questo è un problema che ci tocca tutti, credo. Naturalmente quando il bene che ha in testa una persona è sempre di più nella testa di una sola persona ed è sempre di più il bene presunto di una quantità di persone molto grandi, il problema diventa maggiore. E Nazaro Mensa, il fondatore di Mensaleri, io l'ho voluto raccontare come un tizio del genere, un cattolico convinto di voler fare il bene del prossimo, seguace del Vangelo, che pensa che costruire una cartiera in quel posto lì e fare delle case per gli operai perché vivano lì vicino sia fare il bene delle persone. ne è convinto, e presto però si scontra con l'impossibilità di portare avanti questo progetto, no? Si scontra con qualcosa che gli dice: guarda che non può essere così. E questo qualcosa è la baracca di una donna che, non rappresentata sulle mappe, perché le mappe non rappresentano le baracche di abusive, di persone che hanno trovato così un tetto dove abitare, gli si presenta sotto forma di questa baracca che lui non aveva previsto che fosse sull'isola che ha comprato. Di fronte a questa cosa, Mensa pensa di avere la soluzione. Dice: vabbè, farò a questa donna una proposta che non può rifiutare, perché talmente vantaggiosa rispetto a stare in una baracca, vivere di espedienti, come evidentemente costei fa, probabilmente anche una prostituta, perché una che, no, una donna che vive da sola in mezzo a un'isola in una baracca nel 1868 veniva immediatamente identificata come tale. Io mi metterò d'accordo con un possidente di una cascina qui vicino e le proporrò di andare ad abitare in questa cascina. Chiuderanno un occhio sul suo passato, sul fatto che probabilmente non ha poco di buono, e le daranno un lavoro. Potrà mai dirmi di no? Potrà mai rifiutare? E invece questa rifiuta. Rifiuta la proposta di guadagnarsi da vivere, rifiuta la proposta di andarsene di lì, sta lì per un motivo, quindi non se ne vuole andare. E a quel punto Riniero Mensa, del suo volere il bene del prossimo, ci fa un bel cartoccio e lo butta via, no? E niente, chiama i gendarmi e sgomberano l'isola. Non vi rovino niente perché è una delle primissime scene, no? Però ecco, il romanzo non a caso si apre con lo sgombero di una persona abusiva, della quale ci si chiede come mai non ha accettato una proposta alternativa così favorevole, no? Che è quello che, se notate, ci si chiede sempre quando c'è uno sgombero abitativo di una persona che non potrebbe stare in un determinato posto, no? C'è sempre qualcuno che gli aveva offerto qualcosa, ma loro hanno rifiutato qualunque aiuto, non se ne volevano andare, come se fosse impossibile, no? Appunto, chi sa qual è il tuo bene, sa che il tuo bene sarebbe andartene di lì, da un posto dove magari hai più freddo, dove non ci sono comodità, in un posto invece più comodo. E non viene previsto il fatto che invece il no, il rifiuto, sia un'opzione, il rifiuto anche di questa miglioramento, di questa riqualificazione, di questa qualità maggiore, no? C'è qualcuno che invece vive secondo dei principi e dei valori diversi. E questo, no, per chi vuole pianificare la vita degli altri è inaccettabile. Devi vivere secondo i valori stabiliti. E questo, diciamo, è quello che accade a Mensaleri. Quindi, alla fine, quello che ho cercato di raccontare è proprio questa dimensione, no, dell'individuo solo che crede di sapere qual è il bene per tutti, e si stupisce del fatto che questi tutti e queste tutte non siano poi d'accordo con lui e con la sua idea di bene. Ecco, e in questo sta, diciamo, il peccato originale che poi Mensa cercherà per tutta la vita di togliersi, temendo anche che questa donna l'abbia in qualche modo maledetto, perché si dice che è una che tira il malocchio, e quindi, bah, forse, siccome fin da subito comincia ad avere delle sfighe con la sua azienda, poi non è soltanto per la questione del voler bene al prossimo, ma c'è anche un po' di scaramanzia che lo porta a cercare di rimediare, no? E di provare a aggiustare questo errore iniziale. E a un certo punto, in un confronto con questa donna, lei gli dirà: ma voi altri siete ben delle strane persone, voi imprenditori, voi che fate questi grandi progetti, perché vi rendete conto che una cosa è ingiusta. Tu sei venuto sull'isola a costruire la cartiera e tutto sommato ti è rimasta in testa questa cosa di aver fatto un'ingiustizia, no? mandandomi via, facendomi finire poi in galera perché ho cercato di resistere, e quindi i gendarmi mi hanno portato in gattabuia. Tu lo sapevi che questo non era giusto, nonostante questo l'hai fatto lo stesso e poi cerchi di rimediare, no? Non era meglio che non lo facessi fin dall'inizio? Avevo altre due domande che si uniscono. Una è queste esperienze di questi paesi costruiti da questi industriali, no? Che si immaginano illuminati e ci rimangono male poi quando la storia gli dice non è così. E facendo un parallelo anche con la nostra città, sono quelle città erano laboratori anche di totalitarismo, cioè il proprietario della casa decideva come dovevi vivere, quanto dovevi bere, come dovevi fare sesso, come ti dovevi innamorare, come ci si univa. Un po' sta succedendo anche nella nostra città, direi forse molto, da tanto tempo, però sicuramente adesso ha preso una piega molto forte, no? Quindi queste battaglie vengono sempre sminuite, no? o paragonate a cose eccessive, quindi negli ultimi giorni insomma ci sono stati dei voli pindarici su legami agli anni di piombo e a cose terribili, oppure appunto non vengono considerate, vengono tenute lontane e il sindaco e l'amministrazione comunale non parla, così come succede in questa, è successo diverse volte, anche qui non viene a parlare. È la città dove è stato applicato il decreto sicurezza con maggiore efficacia, non solo per le zone rosse, sono state multate delle persone perché erano qui per bivacco, una misura ridotta perché è fatta dal comune, non corrisponde al decreto sicurezza, però alcune persone sono state denunciate perché erano qua presenti, cosa che potrebbe succedere forse anche non avendo l'autorizzazione, potrebbe succedere a tutti noi adesso e potrebbero arrivare. Ecco, queste battaglie diventano una battaglia, oltre che per l'ambiente e per la socialità, anche diventano dei baluardi della difesa della democrazia, per come si sta sviluppando. Assistiamo a delle cose che magari possono sembrare normali, a me sono sembrate grottesche. Vedere la polizia che impedisce alla gente di entrare nel palazzo del comune, il palazzo del comune è del comune, lo dovrebbero difendere al massimo la polizia municipale, ma non la polizia statale. Dall'idea proprio dell'ignoranza anche con cui molti politici, e parlo della maggioranza intera, visto che è una difficoltà che hanno tutti, non solo il PD ma anche gli alleati ad affrontare questo tema, c'è una città che certi aspetti delega, un'amministrazione che delega la gestione di certi aspetti ad altri per poi lamentarsi, li delega alla polizia, allo Stato, per poi lamentarsi di questa invasione. Però ecco, mi sembra che queste lotte siano un baluardo forte anche in difesa della democrazia, di una democrazia dal basso, popolare, dove le persone vogliono contare, ma anche vengono messi in discussione i temi della libertà di espressione, che sono molto forti. Sì, direi battaglia appunto in difesa della libertà più in generale, no? Io nello studiare questo fenomeno dei villaggi operai tra la fine dell'Ottocento e gli anni 30 del Novecento, e nel far confluire vari aspetti di questi luoghi in un unico luogo inventato che è Mensaleri, mi sono effettivamente reso conto di come questi siano stati dei piccoli laboratori su scala minore, appunto, di quello che poi su scala nazionale sarebbero diventati i totalitarismi, no? Perché il villaggio operaio era proprio il luogo dove il padrone si occupava di ogni aspetto della tua vita. Non era più soltanto appunto quel tipo di dittatura interna alla fabbrica, nella quale appunto per il tempo che tu stai nella fabbrica ti devi comportare in un certo modo, rispettare determinate regole, stare puntuale a certi orari, se no sei multato, se no hai dei richiami, se no vieni licenziato, se no eccetera eccetera eccetera. Ma questo schema, questa dinamica esondava dalla fabbrica e coinvolgeva anche il villaggio, o meglio, il villaggio era fin da subito un ingranaggio della fabbrica, no? Così come la fabbrica, nel caso di Mensaleri, produceva carta, così il villaggio operaio doveva produrre operai e operaie disciplinati, già pronti appunto a entrare in quel contesto produttivo e industriale. E per fare questo appunto non ci si occupava più soltanto della loro dimensione lavorativa, così come nelle dittature totalitarie non ci si occupa più soltanto delle opinioni politiche, dei diritti politici delle persone, non ci si preoccupa più soltanto di controllare la stampa, di controllare appunto magari con un partito unico la possibilità di scegliere democraticamente alle elezioni, ma si finisce per decidere anche che cosa studierai a scuola, dove ti andrai a divertire, come ti divertirai, tutti questi aspetti. Il villaggio globale funzionava in questo modo. Nel piccolo, il fascismo e il nazismo sono stati un'applicazione di quel tipo di principio, di quel tipo di organizzazione, su una scala molto più vasta. Poi, in maniera strisciante, un totalitarismo dello stesso tipo è stato applicato al villaggio globale, perché se ci interroghiamo, no, nella nostra esistenza anche attuale, fino a che punto non ci viene detto che cosa studieremo, che cosa impareremo, che cosa è importante sapere, che competenze dobbiamo avere per competere, come dobbiamo divertirci, come dobbiamo passare il tempo. Comunque, no, questi elementi di totalitarismo, di nuovo come nel paternalismo ottocentesco, rivestiti di bontà, rivestiti di è il tuo bene, rivestiti di così vivrai meglio, però ci continuano a essere proposti in una situazione in cui peraltro ci viene anche chiesto di essere produttivi 24 ore al giorno, no? In cui appunto la fabbrica è veramente esondata dalle mura della fabbrica, e i meccanismi e gli strumenti che trasformano in lavoro ogni momento della nostra giornata sono diventati le nuove catene di montaggio, no? Questo è una cosa che ho sentito dire tanto tempo fa da Bifo, che diceva: beh, la catena di montaggio era lo strumento con il quale il padrone trasformava in lavoro ogni minuto passato dentro alle mura della fabbrica. Poi sono arrivati degli strumenti, per esempio lo smartphone, che trasformano in lavoro ogni minuto della tua vita, senza che ci sia bisogno che tu sei in un posto, dentro a delle mura, in una fabbrica. No, lì tu devi produrre valore, devi produrre cliccando, andando, utilizzando delle app che, come si dice, per usare le quali, come si dice, il prodotto che viene venduto sei tu, i tuoi dati, i tuoi comportamenti, le tue abitudini che vengono profilate e poi che vengono appunto valorizzate e trasformate in denaro. Quindi sì, questo è un libro che parla anche dei meccanismi totalitari di questo genere e di come poi, diciamo, luoghi immaginati, raccontati come utopici, spesso nascondano questo tipo di meccanismi, no? Che è la cosa inquietante. Io quando sono andato nel primo villaggio operaio che ho visitato in Italia, che è Crespi d'Adda, sono rimasto molto colpito da appunto questo aspetto ancipite, ambivalente del villaggio. Cioè, da un lato tu senti di essere in un posto pianificato secondo un'idea, l'idea di una persona sola, l'abbiamo detto, però ideale in questo senso, no? È una piccola città ideale, tutte le strade ortogonali, le case per gli operai bifamiliari, ogni famiglia ha la sua parte di un piccolo edificio, con il giardino intorno, con lo spazio per l'orto, poi dietro le case dei dirigenti, poi appunto il teatro, poi il lavatoio, poi la scuola. Tutto a misura d'uomo, c'era questo motto, venendo qua ho visto un grande manifesto 6x6 con questo motto sulla Bologna di Zangheri, no, non a caso, a misura d'uomo, e tutto a misura d'uomo, tutto pensato secondo appunto quasi un'utopia. E poi nel percorrere quelle stesse strade, nell'aggirarti per quei luoghi, hai contemporaneamente anche la sensazione netta di essere in una istituzione totale, in un posto che sembra un manicomio, che sembra un ospedale, che sembra un carcere, che sembra un campo di concentramento. Se tu pigli una foto dall'alto di Crespidadda, non è molto diversa da Fossoli, no? Cioè ci sono veramente tutti i posti, le baracche, invece delle baracche ci sono queste casettine, ma anche proprio dal punto di vista topografico è molto simile. E allora mi sono voluto interrogare narrativamente, perché questo è un romanzo, non è un saggio sui villaggi operai o sull'utopia, ma mi sono voluto interrogare attraverso dei personaggi, attraverso delle vicende, una trama, su questo aspetto, no? Del questo legame inquietante che ci può essere o che si può nascondere dietro a una narrazione utopica, dietro all'utopia, appunto, poi quando è un'utopia non davvero condivisa, non davvero partecipata, ma è un'utopia raccontata come tale da un'unica persona o da poche persone. Ecco che quell'aspetto totalitario, quell'aspetto carcerario, quella griglia ortogonale delle strade pensata per essere ideale diventa la griglia alle finestre del carcere, e quasi senza accorgersene. E questo penso che sia, insomma, un elemento su cui riflettere, perché appunto quasi sempre ormai nell'età contemporanea quello che poi si rivelerà essere un carcere ci viene presentato come invece ben agghindato, con un bello spot, un bel rendering, e se non affiniamo i nostri sensi di ragno per sentire dietro a quel rendering, per vedere dietro a quella, a quell'utopia palesarsi il carcere, beh, finiamo in gabbia molto facilmente. Bene, se ci sono degli interventi, delle domande tra il pubblico, qualcuno vuole... Dietro di me. Ciao, e allora, grazie della presentazione. Io ho in realtà un sacco di spunti su questa cosa, però la cosa che volevo dire è proprio sui processi partecipati finti. Intanto c'è un discorso appunto su queste elargizioni liberali, mi viene in mente, che ne so, tanti anche industriali di oggi che si fanno belli di chissà quale grande idea di lavoro, cioè di lavoro umano, e poi in realtà sfruttano come tutti e si rifanno i propri borghi, quindi non è una cosa andata, anzi è una cosa di cui si parla proprio oggi particolarmente, ma in particolare sul discorso proprio processi partecipati finti mi veniva da notare che in accademia, nell'università, spesso e volentieri sono gli stessi studenti che anche con un moto positivo vogliono studiare per diventare facilitatori, cioè vogliono studiare per diventare quelli che facilitano i processi partecipativi, il che già è abbastanza, dal mio punto di vista, un controsenso, perché in teoria la facilitazione ai processi partecipati già vuol dire che c'è qualcosa che non è andato, per come la vedo io, cioè già vuol dire che c'è qualcosa che non è veramente in autogestione, non è veramente dal basso, però ok, capiamo che possa venire da qualche personaggio appunto delle amministrazioni, del potere, che cerca di usare queste facce comunque amiche. Però ecco, è interessante l'adesione dal basso a questa immagine e a questa idea dei processi come qualcosa di buono, cioè di dire quasi come se ci fosse una sorta di arrendevolezza da parte anche della fascia più scolarizzata, diciamo così, all'idea che questo è il meglio che si può fare, quindi facciamoci portatori di questa cosa, impariamo delle tecniche, quando appunto la critica alla tecnica è una cosa invece fondamentale, cioè dire non ci serve il tecnico, la tecnica, ci serve un sapere collettivo che si attua. Ecco, non so se voi avete, o se tu hai comunque visto questa cosa anche appunto nel lavoro magari di archivio che hai fatto, su queste figure intermedie, diciamo, che potevano essere dal basso, invece si fanno portatori di una sorta di intermediazione, magari anche in buona fede, ma che in realtà diventano parte strutturale del sistema di oppressione e del sistema appunto totalizzante di questa cosa. Sì, beh, la buona fede è un aggravante di solito, ed è il mistero, no, di questa adesione a volte anche entusiastica oppure comunque rinunciataria, no, a certe dinamiche. Il mistero, se vogliamo, è il mistero analizzato nei testi sulla servitù volontaria, no? Come mai l'essere umano si presta volentieri in certe situazioni ad essere schiavo, ad essere servo, no? Sulla questione che sollevavi rispetto alla attualità di certe figure imprenditoriali, beh, sicuramente quell'attualità è uno dei motivi che mi ha spinto a scrivere il libro, no? Vedevo proliferare in libreria saghe di dinastie industriali nelle quali viene costantemente celebrato il genio creativo di questi individui, sempre individuale, quasi sempre, tranne qualche eccezione, individui maschi, iniziatori di una dinastia patriarcale, che vengono celebrati appunto per il loro coraggio, per aver investito, per aver fatto del bene, per le loro idee progressiste. Storie nelle quali, ma se andate in libreria ne trovate veramente decine, ci sono i Rizzoli, ci sono i Lint, c'è tutto. Storie nelle quali quando si deve mettere in scena un conflitto, perché per raccontare una storia un po' di conflitto ci vuole, altrimenti non sai che cosa raccontare, si tratta quasi sempre di conflitto interno alla famiglia, cioè sono invidie, gelosie, corna, problemi di eredità. Non è mai il conflitto con chi produce la ricchezza della famiglia, no? Non è mai il conflitto capitale-lavoro, per dirlo molto chiaro, no? E il modello sembra essere quello, molti di voi dalle facce probabilmente avevano già l'età per ricordarseli negli anni 80, il modello sembra essere quello di certe, oggi le chiameremmo serie TV, allora telenovelas o così, Dallas, Dynasty, Falcon Crest, no? Questi, è tornato alla ribalta in maniera forte, al punto che qualche mese fa al cinema è uscito un film intitolato Brunello, un visionario garbato, dove Brunello Cucinelli, imprenditore del Kashmir, ha pagato un regista premio Oscar, Giuseppe Tornatore, ha pagato un musicista premio Oscar, Nicola Fiovani, per confezionargli il santino su misura, nel quale stare davanti alla telecamera, lui è ancora vivo ovviamente, stare davanti alla telecamera e raccontare quanto è buono, bravo, intelligente e soprattutto quanto coinvolge nella sua impresa economica i suoi dipendenti. Li coinvolge talmente tanto che nel film parla solo lui, c'è sempre solo lui davanti alla telecamera, quindi uno dice, ma se sei così bravo a far partecipare, no? Ogni tanto magari prenderà la parola uno e dirà forse anche qualcosa di critico, no? Perché no, se sei aperto alla partecipazione, al dialogo, dovrebbe esserci questo. No, è una specie di monologo costante di questa persona che si fa appunto costruire un monumento di celluloide pagato da lui stesso, ecco. E altrettanto attuale credo che sia il discorso del cosiddetto welfare aziendale, no? Perché alla fine quello che accadeva in questi villaggi operai era che tutta una serie di misure di welfare venivano garantite sotto forma di privilegi, cioè è un tuo privilegio se lavori per me, dall'imprenditore. Con la differenza rispetto all'oggi, che allora quelle forme di welfare non esistevano, l'imprenditore le introduceva pro domo sua per avere, diciamo, una leva di potere, però le introduceva ed effettivamente non c'erano. Cioè io, per dire, racconto di come a un certo punto i Mensa introducano una cassa, i cui cordoni, una borsa, una cassa, le cui chiavi le tengono loro, fatta attraverso delle trattenute sugli stipendi degli operai e delle elargizioni periodiche da parte della famiglia, che diventa la cassa per gli infortuni, per indennizzare gli infortuni sul lavoro, no? Ovviamente in quel momento una cassa del genere a livello nazionale non c'è. È chiaro che questo per chi lavora nella cartiera è, diciamo, un miglioramento rispetto a farsi male e non avere una copertura, no? Però è significativo il modo in cui poi Mensa si comporta nel momento in cui nel 1898 arriva la proposta invece di una assicurazione nazionale sugli infortuni, e c'è una grande discussione in Italia se istituire appunto una forma di previdenza su scala nazionale. E Mensa, come molti degli imprenditori illuminati che fondavano questi villaggi operai, si oppone a un simile provvedimento perché ovviamente lo priverebbe di una leva di potere. Se tu hai l'indennizzo quando ti fai male perché hai il privilegio di lavorare per me, allora per garantirti e mantenerti quel privilegio poi io potrò chiederti di non rompermi i coglioni, non scioperare, essere disciplinato, e se poi te ne vai da qui e non lavori più per me, te lo scordi di avere la copertura per gli infortuni, no? E quindi otterrò il risultato di tenerti stretto, perché poi spesso questi imprenditori avevano quel problema, no? Che costruivano queste fabbriche fuori dai grandi centri abitati, dove già l'acqua era abbondantemente sfruttata, avevano bisogno della forza motrice dell'acqua, dell'acqua come elemento chimico nel caso della cartiera, e però fuori dai grandi centri urbani non c'era l'esercito industriale di riserva, no? che poteva sostituire eventuali buchi nei reparti produttivi, e quindi dovevano cercare di tenerseli anche stretti gli operai formati, soprattutto in una cartiera dove insomma no, ci vuole una certa formazione per lavorare. Quindi questo diventava un elemento di ricatto sostanzialmente: se è un privilegio e non è un diritto, io ti posso ricattare e togliere il privilegio. E quindi cercano di evitare che venga istituito su scala nazionale. Poi viene istituito. Oggi siamo invece, diciamo, in una fase molto diversa, perché tutta una serie di elementi di welfare ci dovrebbero essere. Il fatto che invece vengano introdotti, vengano aumentati, vengano integrati da parte dell'azienda, diventa poi un viatico, una buona scusa, un pretesto per eliminarli dal punto di vista collettivo, no? Per cui di nuovo, se tu hai il privilegio che lavori per la Ducati, o ti devi considerare privilegiato, no? Perché lavori per la Ducati, perché alla Ducati c'è l'asilo. È chiaro che se invece l'asilo viene garantito a tutti e a tutte, e tutte le famiglie hanno la possibilità di accedere a un asilo, non c'è più un privilegio che mi devo sentire di avere nel momento in cui lavoro per il padrone X o per il padrone Y. E invece il fatto che queste forme di welfare vengano, penso a quello sanitario, vengano introdotte dalle aziende, peraltro con degli sgravi fiscali, quindi in realtà questo è un welfare fiscale, non è un welfare del padrone buono che introduce, no, questi strumenti, beh, però comunque diventa il pretesto per smantellarli dal punto di vista invece pubblico, statale, per tutti e tutte. Quindi sì, sicuramente diciamo sono tornato nell'Ottocento perché ogni tanto mi sembra che ci stiamo tornando nell'Ottocento, che stiamo tornando a dinamiche e a rapporti di forza che somigliano più al 1868 che non al secolo scorso. Sì, sicuramente poi anche nella nostra città siamo un'eccellenza nel deviare, cioè, il potere, sia i soldi che la capacità di decisione, da strutture pubbliche a quelle private, le fondazioni, la famosa fondazione pubbliche a gestione soci pubblici, che però gestiscono in modo privato, costruendosi anche poi un modo, cioè così, ricattando anche i lavoratori, perché i lavoratori che lavorano per queste fondazioni, che è la FIU, la fondazione degli innovatori, che adesso non si chiama più FIU, comunque si è unita con altre, è lì che si prendono le decisioni, è lì che si comanda, è lì che gli assessori lavorano, e anche gli operatori che lavorano lì sono sì con contratti pessimi, ma comunque legati a questo, quindi la fedeltà a questa struttura poi mantiene, li tiene legati. Ci sono altre domande? Ecco. Ciao, no, ma ci metto poco. Volevo chiederti due cose. Allora, volevo che tu approfondissi per quanto possibile, senza spoilerare, l'apporto della psichedelia allo svolgimento del tuo plot narrativo, E poi volevo dire che penso di aver sgamato dove tu hai trovato ispirazione per la Madonna del Latte, questa Madonna col seno scoperto, non si può dire, e penso che sia una statua che c'è in una cripta di un personaggio illustre in San Petronio a Bologna. Vediamo se ci ho beccato o no. Grazie. Sì, allora questo è un aspetto che abbiamo tralasciato del romanzo, cioè tutto un côté, un ingrediente, un elemento fantastico, religioso, mistico, esoterico, che attraversa la trama e che interessa tanto la famiglia Mensa, diciamo con appunto il ricorso a consulenti che sono dei cartomanti per prendere le decisioni interne all'azienda, e con richiami comunque alla magia, alla religione. Insomma, non a caso Walter Benjamin scrisse poco più di 100 anni fa un testo intitolato Il capitalismo come religione, e dopo magari ci torniamo. E dall'altra parte questo ingrediente c'è anche nella comunità, cioè una parte della comunità di mensalieri, già da molto prima che arrivi la cartiera, che arrivi la famiglia Mensa, quindi qualcosa che è successo prima, perché appunto il capitalismo e l'imprenditore amano raccontarsi che tutto è iniziato quando è arrivato lui, invece i posti hanno delle storie che li determinano, che determinano il loro modo di crescere e di cambiare, che spesso vengono prima di chi si è pensato un progetto e lo cala dall'alto sui posti stessi, no? E che poi determinano come questi progetti vengono calati. Quindi appunto sull'isola dove Nazaro Mensa costruisce la cartiera mi sono inventato che nel 1300 ci sia stata un'apparizione della Madonna a una contadinella, un classico, una Madonna un po' troppo discinta per essere, diciamo, presa in considerazione dalla chiesa ufficiale, anche perché a questa contadinella dice una serie di cose che vanno contro alcuni dogmi importanti della fede cattolica, primo fra tutti quello della Madonna Vergine prima, durante e dopo il parto, questa apparizione fa sì che una parte della comunità di mensalieri segua uno strano rituale religioso, un rituale religioso che è una specie di eucarestia, che invece di eucarestia al femminile, che invece di basarsi sul corpo e il sangue di Cristo si basa sul latte della Madonna. E questo latte della Madonna è un intruglio con una ricetta segreta che si tramandano le donne della confraternita, e che ha effetti psichedelici. Effetti psichedelici, diciamo che modifica la percezione del tempo. Assumendo questo ingrediente durante i rituali, se si fa qualcosa di piacevole, dopo averlo assunto, il piacere sembra durare molto di più. Cioè è l'inverso di quello che ci accade di solito, no? Se fai una cosa piacevole ti sembra durare poco. Grazie al latte della Madonna, 5 minuti di piacere ti sembrano durare 2 ore, 3 ore, molto di più. Sulla base di questo, la confraternita, inizialmente essendo una confraternita religiosa, fa delle riunioni, dei rituali, in coincidenza con le 4 stagioni, nei quali prega, e siccome prega, canta insieme, prega insieme, siccome questa attività è comunque piacevole, è un modo di stare insieme, la preghiera sembra durare molto di più e quindi sembra essere molto più potente, perché appunto preghi un'oretta e invece sembra che hai pregato per giorni, no? Per chi crede nel potere della ripetizione della parola, della preghiera, grazie anche proprio alla sua durata, questo è un potenziamento della preghiera. Queste persone però ben presto si rendono conto che il loro rituale gli dà la possibilità di stare insieme in un luogo segreto, perché non potendolo più celebrare sull'isola dove è apparsa la Madonna, perché è diventata una cartiera, lo vanno a celebrare nei boschi, Quindi in un luogo non sorvegliato dal padrone, non disciplinato dal padrone, che non fa parte dello spazio del padrone, che non è appunto spazio, non è soltanto metri quadri su cui il padrone ha costruito i suoi progetti, ma è un luogo fuori dal villaggio, fuori dalla fabbrica, ed è anche un tempo fuori dal tempo della fabbrica. La cartiera ha imposto un tempo unico, laddove prima c'era una cronodiversità, laddove prima c'erano tanti tempi diversi: i tempi del lavoro agricolo, i tempi della preghiera, il tempo della festa, il tempo dello stare insieme a veglia e a raccontarsi storie, tanti tempi. Poi è arrivata la cartiera e il tempo è diventato uno solo: il tempo del lavoro, il tempo scandito dalle sirene della fabbrica, e anche il tempo fuori dalla fabbrica in fondo ha la stessa qualità di quel tempo, perché è un tempo in funzione poi della produzione. Anche il riposo finisce per diventare quel tipo di tempo. Invece il tempo dilatato del rituale, grazie anche al latte della Madonna, diventa un tempo altro, qualitativamente altro, no? Il tempo di cui tutti noi abbiamo bisogno, di cui tutti noi andiamo alla ricerca, no? Spesso ci prendiamo anche del tempo per riposare e poi non siamo riposati, siamo stressati uguale, perché in fondo abbiamo vissuto un tempo qualitativamente non diverso da quello produttivo che ci viene continuamente richiesto o imposto. Questo, diciamo, è l'effetto psichedelico del latte della Madonna. Da questa condivisione di un tempo diverso e di uno spazio diverso, le persone che partecipano al rituale cominciano a dire: va bene, ma non è che adesso che abbiamo finito di pregare possiamo cominciare anche a parlare di che cosa ci sta succedendo? A prenderci il tempo anche per confrontarci, senza bisogno appunto di facilitatori, a parte questa bevanda, diciamo, che facilita sicuramente, ma che tutti possono, alla quale tutti possono avere accesso. E non è che possiamo prenderci questo tempo dilatato, che sembra più lungo, che sembra trascorrere più lentamente, che sembra come il latte quando lo monti, no? Il latte di solito è un liquido che appunto scorre, invece quando lo monti aumenta di volume e si ferma. Ecco, loro hanno la sensazione che il latte della Madonna quasi monti il tempo, monti il flusso del tempo. Non è che possiamo prenderci questo tempo per prendere coscienza di quello che ci sta succedendo, perché per prendere coscienza della violenza che si subisce, del sopruso di cui si è vittima, dello sfruttamento che avviene intorno a noi, per, nel caso degli operai e delle operaie di Mensaleri, per sviluppare una coscienza di classe, serve tempo. Un paio di mesi fa presentavo il romanzo a Firenze insieme a Dario Salvetti del collettivo di fabbrica dell'ex CKN, e lui mi raccontava di come prima che la fabbrica chiudesse avessero passato molto tempo a lottare per ottenere che la pausa per mangiare, la pausa mensa, non fosse suddivisa in turni in cui mezz'ora 50 persone, un'altra mezz'ora altri 50, un'altra mezz'ora altri 50, ma volevano un momento in cui mangiare insieme, tutti insieme, ed essere tutti, almeno quelli di quel turno lì, no? Tutte le persone presenti in fabbrica in quel momento, tutte insieme in un unico luogo e in un unico tempo, e di come l'azienda tenesse il punto in maniera determinatissima per non concedere questo, per non farsi strappare, diciamo, il dominio su questo tempo, proprio perché evidentemente non voleva che ci fosse un momento in fabbrica in cui tutti stavano insieme e condividevano un unico tempo, proprio perché questo tempo poi diventa utile per rendersi conto, per formarsi una coscienza collettiva, e di come poi appunto se lo cercassero di ritagliare quel tempo nello spogliatoio, nel momento di cambiarsi, no? e mettersi i vestiti per uscire dalla fabbrica. Quindi ecco, il tempo è uno dei temi fondamentali del libro. In maniera fortuita i Mensa vengono a sapere che esiste questo intruglio e quindi cercheranno in tutti i modi di accaparrarselo. per vari motivi, intanto non possono sopportare che gli operai e le operaie della Carmen, della cartiera mensa, abbiano un segreto che loro non conoscono, no? Perché comunque avere un segreto è avere un potere. Quando tu sai una cosa che l'altro non sa, questo determina una relazione di potere. Ma dall'altra parte si rendono conto che chi è signore del tempo, chi ha in mano il tempo di un'altra persona, è simile a Dio per quella persona, no? Nel Vangelo c'è scritto che nessun individuo può aggiungere un solo minuto alla sua vita, e quindi soltanto Dio è il padrone del tempo. E però se c'è una persona che sì, non può aggiungere un minuto di tempo alla tua vita, ma ti può per esempio dare 24 ore di ferie, e quindi ti può aggiungere 24 ore di riposo a la tua routine normale, o ti può dare un'ora di stipendio di multa perché hai tardato 10 minuti all'ingresso, beh, quella persona è molto vicina a Dio, si avvicina a Dio per te, no? È appunto il capitalismo come religione, il capitalismo che domina il tuo tempo e che ti dice: non c'è alternativa a me, no? Non c'è alternativa ai miei dogmi, non c'è alternativa, non avrai altro Dio all'infuori di me. E quindi vogliono accaparrarsi questo ingrediente, questo intruglio psichedelico, perché capiscono che questo permette alle persone di ritagliarsi invece un tempo che loro non controllano. E niente, quindi diciamo nella trama storica più vicina alle fonti, ai documenti che ho studiato, ho infilato questo elemento, cercando di renderlo diciamo verosimile, perché è una confraternita religiosa, c'è un intruglio che ha degli effetti, però insomma no, sostanze con degli effetti psichedelici ne esistono, e cerco di motivare anche come mai questo intruglio ha questi effetti. Ho inserito questo elemento perché mi interessava parlare del tempo. No, la prima Madonna del Latte in realtà che ho visto non è questa che dicevi, dov'è? Non è questa che dicevi di San Petronio, invece più non so come sia quella, più nella cappella in San Petronio. Più interessante credo questa che ho visto era, non mi ricordo più il nome, mi pare Dovera il paese, è un paese della Lombardia, una chiesa dove sono entrato quando andavo a piedi da Bologna a Milano per un progetto folle che si chiamava Il Sentiero Luminoso, e sono entrato in questa chiesa, e in questa chiesa c'è appunto una Madonna del Latte, cioè una Madonna colta nel gesto di allattare suo figlio, alla quale sono stati coperti con un velo evidentemente aggiunto in un secondo momento i capezzoli. E ho letto poi che appunto soprattutto San Carlo Borromeo, in epoca di Controriforma, ce l'aveva particolarmente con queste madonne che facevano vedere il seno, e aveva ordinato in molte chiese della Lombardia di andarle a censurare, di andarle a coprire, un po' come si mettevano le braghe ai putti col pisello di fuori, ecco la stessa cosa, ma ovviamente con un côté più oscurantista, perché fatto diciamo su un corpo femminile, quindi con un'attitudine ancora diversa. Quando ho visto questa Madonna, dopo ragionando mi è tornata in mente, perché volevo appunto un culto che fosse eretico, che non fosse accettato dalla Chiesa, no? E allora mi sono detto: beh, se a questa contadina comparisse appunto una Madonna di questo tipo, forse già. Sì, esatto, una Madonna che sì, perché poi questa Madonna in particolare ha proprio tutto il seno scoperto, questa che appare a questa contadina, perché da una parte allatta in realtà sua figlia, quindi si scopre che c'ha una figlia, e l'altro dall'altra parte vorrebbe allattare la contadina, dicendo: io allatterò con questo latte tutta l'umanità, il mio latte salva, e quindi vieni, prendi il mio latte. Ci sono dei quadri di apparizioni della Madonna, dei santi, credo anche uno con San Bernardo, che gli appare la Madonna e nel quadro dal seno della Madonna schizza questo latte nella bocca del santo, no, al quale la Madonna donna appare, che sta lì e prende questo fluido magico. E niente, da tutte queste suggestioni mi sono creato questo strano culto mariano che c'è nel romanzo. Bene, è una sostanza che dilata il tempo nelle nostre menti e aiuterebbe molto in certe assemblee, alle bestie sicuramente dopo 4 ore e mezza di assemblea con un prodottino ci avrebbe aiutato forse a stringere bene i tempi. Allora, ci sono degli altri interventi, ce n'è una già prenotata. Prego. Una voce di donna solo. Prendici. La mia omonima peraltro. Sì, io vorrei... Cioè, siamo andati sul latte della Madonna, ma io volevo fare un riferimento al teatro prima, però sei poi ritornato nel tempo, quindi ci sta. Allora, il tempo, sto pensando al tempo che c'è stato nel periodo del Covid, dove eravamo tutti dentro e io sono uscita in bicicletta nella zona Pescarola Noce e i camion, le aziende andavano avanti senza nessuna interferenza, nessuna, andavano avanti ste betoniere, sti camion, quindi già una dimensione del tempo l'abbiamo avuta lì. E un'altra dimensione del riferimento al teatro di cui parlavi prima, che tutti questi percorsi partecipati, questa situazione è un teatro in cui il pubblico non è chiamato dentro, è fuori. Noi siamo fuori dalle quinte del cantiere adesso, siamo fuori dai percorsi partecipati, fintamente aperti, in realtà non sono aperti. È tutto un teatro, tutta anche i consigli comunali sono tutto un teatro, grazie all'assessore, grazie al sindaco, è tutto un ringraziarsi, anche l'opposizione, è tutto un ringraziarsi. Ed è un teatro in cui brillano e luccicano questi rendering, per il pubblico, questi briciolini di luci, l'immagine del Muba che verrà fuori. Ma è una sagoma di una fabbrica col tetto a dentoni e una finta ciminiera giallo limone. Ma c'è anche la presa in giro, oltre che escludere la gente. L'uso del linguaggio non ne parliamo, perché a me questo Tecnopolis mi è venuto, ce l'ho ancora qua di traverso, questa iniziativa che fanno adesso. Come mi fa venire il nervoso, mi sembra, tu dici l'Ottocento, a me sembra di essere tornata all'epoca della colonizzazione, quando si davano in cambio le perline colorate ai nativi d'America e intanto gli si portava via l'oro, perché questo che c'è al pilastro è oro e vengono dati delle paillettes. Non ho letto il libro, è una storia vera questa o è un... Diciamo è un treccio di storie vere, di aneddoti veri, ma dentro una storia inventata. Il posto è inventato, i mensa sono inventati. No, mi vorrei collegare solo rapidamente a questa questione del colonialismo che hai citato, perché ci tengo particolarmente. A un certo punto nel romanzo uno dei mensa diventa anche deputato e c'è la famosa battaglia di Adua del 1896, nella quale l'esercito del Regno d'Italia viene sconfitto dall'esercito di Menelik II nel primo tentativo di conquistare l'Abissinia da parte del Regno d'Italia. È primo ministro Crespi è quello di Crespi Dad, e Mensa da deputato critica la impresa africana di Crispi, no? E la critica dicendo: non siamo ancora pronti per andare a civilizzare, a colonizzare le terre d'Africa, perché i selvaggi ce li abbiamo in casa, in queste campagne dove gente come me, dove pionieri come me, esploratori come me, stanno portando l'alfabeto, il lavoro, la disciplina, no? Cioè lui si sente effettivamente un colonizzatore, un colonialismo interno, però si sente un colonizzatore. E una delle cose che contraddistingue il colonialismo, lo dicevo prima, da un lato è questo fatto di immaginare che prima dell'arrivo del colonizzatore non ci fosse nulla, no? In parte l'ho sentito dire, no? Per esempio, beh, quello lì era un parco dove la gente non è che ci stava poi tanto volentieri, non è che ci fossero, non abbiamo tolto dello spazio ai bambini, i bambini non lo usavano, non è vero niente ovviamente, però c'è questa idea, no? Che tutto comincia nel momento in cui sono arrivato io e ho fatto il progetto. Prima non c'era nemmeno la storia. Se uno legge i libri degli esploratori europei in Africa, per esempio, appunto agli inizi dell'Ottocento, fine del Settecento, quasi sempre c'è questo atteggiamento di considerare che ciò che c'era prima fosse lo stato di natura, dove vigevano le leggi di natura e non c'era la storia, non succedeva niente, gli esseri umani erano al pari di animali. Così come rispetto alla storia, quindi rispetto al tempo, lo stesso atteggiamento il colonialismo ce l'ha con i luoghi, cioè non li considera vuoti, li considera spazi, li considera metri quadri da occupare, superfici da occupare, li considera superficiali. Anche lì, se uno legge i resoconti degli esploratori italiani in Somalia, prima che l'Italia trasformasse la Somalia in una colonia, molte delle descrizioni sono: qui c'è spazio vuoto, qui non c'è niente, qui nessuno usa il territorio. Perché? Perché non vedevano il tipo di uso del territorio che erano abituati a vedere, quello agricolo, no? Perché lì c'erano nomadi che pascolavano i loro dromedari, i cammelli, e avevano in realtà un uso del territorio molto preciso, dei confini, dei pozzi, dei punti di riferimento, ma il colonialista non li vede, non è il tipo di valorizzazione del territorio che ha in mente, no? Perché lui lo vuole valorizzare in un altro modo, infrastrutture, agricoltura, invece lì c'è magari appunto un popolo pastore, e allora racconta il vuoto, perché se c'è il vuoto sono più legittimato a prendermi quello che non era di nessuno, no? E anzi può valere il principio che appunto chi si prende cura di un posto di cui non si prendeva cura nessuno, quel posto diventa suo, no? Il principio dell'accaparramento iniziale che c'è nei libri di Locke, che c'è negli illuministi inglesi. E l'ultima cosa, è buffo vedere come invece quando questi esploratori arrivano in posti dove l'uso del territorio è simile a quello che ci si potrebbe aspettare con un occhio, con uno sguardo occidentale, cioè è coltivato, perché in Somalia, per esempio, lungo la valle dello Webishebeli, di uno dei fiumi o del Giuba, c'erano coltivazioni. Allora lì queste coltivazioni vengono descritte dicendo che la terra produce spontaneamente, cioè non c'è bisogno di intervento, no? Per, diciamo, di nuovo, per svalutare la presenza di esseri umani e quindi poter dire: beh, adesso arriviamo noi e ce lo prendiamo, tanto questi manco coltivavano, gli venivano su le cose, no? Da sole, senza aver stabilito un rapporto, no? con l'ecosistema, senza farne parte. E questa è una strategia che il colonialismo ha sempre, anzi, secondo me è una cartina al tornasole per capire quando un progetto è colonialista. Quando un progetto arriva e cancella la storia di un luogo e tratta un luogo come se fosse uno spazio, una semplice superficie, quello è un progetto colonialista. Risonanza. No, la mia è una curiosità che ha anche una certa valenza personale, se sei disponibile, diciamo. E cioè sulla creazione di un romanzo di questo tipo. E, cioè, mi piacerebbe sapere, cioè, tu hai costruito un sistema, proprio un mondo, un ambiente con delle dinamiche interne, le sue leggi, contraddizioni, dinamiche, eccetera. Mi piacerebbe sapere anche una forma di partenza, cioè come nasce la costruzione proprio da parte dell'autore di un'opera di questo tipo. Per esempio, il tuo collega Vuminguno, con l'ultimo suo ultimo Gli uomini pesce, parla del Polesine, e dietro c'è una grande ricerca anche storica su tutto quello che è avvenuto, però lui è nato lì, nato e cresciuto lì, quindi diciamo che probabilmente c'è una scintilla, una genesi di un certo tipo per la partenza. Tu in parte hai già detto che hai fatto diversi studi sui villaggi operai, sei anche andato a visitarli. A me mi hai un po' ricordato un certo sistema giapponese dell'azienda totale che segue tutto, cioè anche la ricreazione, l'asilo dei bambini, la famiglia che si fonde con l'azienda. Ho sentito qualcosa di questo tipo. Ma da dove sei partito? Cioè che stimoli hai avuto per costruire tutto questo? Grazie. Grazie. Evidentemente una delle differenze che saltano agli occhi tra questo romanzo e quello precedente della nostra officina, che è quello scritto dal mio compare Wuminguno, è che in quello ci sono luoghi reali, questo invece è tutto ambientato, nonostante sia un romanzo sull'importanza dei luoghi e delle loro storie, però è tutto ambientato in posti che non esistono, che mi sono inventato. Allora, da un lato l'invenzione è nata proprio dal fascino che esercitavano su di me questi villaggi operai, con queste loro contraddizioni, inquietudini. Anche la dimensione, per esempio, simbolica che spesso ho trovato, no? Sono luoghi dove non ci si limita ad architetture funzionali, ma spesso ci sono architetture piene di simbologie che non ti aspetteresti, no? Perché in un luogo del lavoro, in un luogo della produzione, ti aspetteresti soltanto, no? La funzionalità, che tutto sia studiato per avere un certo scopo. Invece scopri che hanno usato del materiale in più, quindi secondo un principio non economico, per mettere dei simboli anche negli edifici della fabbrica, anche nelle case degli operai, no? Queste dimensioni qui mi inquietavano, mi affascinavano, e però erano disseminate in villaggi operai diversi. Ne trovavo alcune a Schio, dove il villaggio operaio per l'industria tessile della Lane Rossi, ne trovavo alcune a Tor Viscosa, ne trovavo altre a Crespidadda, ne trovavo altri al villaggio Leoman di Torino, insomma. E a un certo punto mi è venuta l'idea che forse, se volevo tenere insieme tutti questi elementi, ingredienti, aneddoti, vicende che avevo trovato nei documenti che mi interessavano, mi dovevo inventare un posto dove farle invece confluire in un unico luogo, altrimenti se avessi scelto Schio, ovviamente avrei dovuto raccontare solo le cose accadute lì e altre non le avrei potute raccontare. E poi temevo anche che, leggendo il romanzo, si pensasse che il romanzo fosse su un luogo preciso, mentre io volevo parlare delle dinamiche dei villaggi operai e del lavoro e del conflitto capitale-lavoro più in generale, no? Quindi un luogo inventato mi sembrava più adatto. Ovviamente, insomma, il lavoro di creazione di questo mondo è stato abbastanza complesso. Ho dovuto fare soprattutto attenzione alla coerenza, no? Cioè quando metti sulla carta, trasformi in narrativa eventi che sono realmente accaduti in luoghi che esistono davvero, puoi sempre andare a verificare le fonti per vedere un dettaglio che non ti ricordi, no? Cioè tu hai messo che la tal cosa è lì dal 1872, poi quando sei un po' più avanti nella stesura del romanzo non te lo ricordi bene, vai a prendere una fonte e lo trovi. Qui gli elementi devono tutti tornare, ma devi essere tu che li fai tornare, no? Non è che tornano perché sono successi, perché esistono e quindi per forza di cose tornano. Devi farli tornare tu, devi renderli coerenti tu, renderli credibili. Quindi, per dire, anche quando mi sono inventato l'apparizione della Madonna, però mi sono andato a studiare testimonianze di apparizioni delle Madonne, soprattutto quelle che la Chiesa non ha accettato come vere apparizioni della Madonna, no? Come funzionava? Com'è che poi queste venivano rigettate? Che cosa succedeva alla persona che diceva che gli era apparsa una Madonna che poi non era accettata come Madonna? Perché volevo che anche questo elemento assolutamente fantastico però fosse credibile, no? Quindi ecco, diciamo che questa è una suggestione che nasce dai luoghi, appunto anche dall'averli visitati. Poi un altro elemento determinante per questo romanzo è stato un laboratorio che ho fatto ormai una decina d'anni fa a Milano con la FIOM, con lavoratori e lavoratrici del settore metalmeccanico, quindi diciamo che è abbastanza vario, in realtà più vario di quello che non si pensi di solito, un laboratorio di scrittura collettiva. Quindi i partecipanti, che erano una trentina, sono stati divisi in sei gruppi, 6-7 gruppi da 4-5 persone, e ogni gruppo ha scritto una storia, un racconto, una narrazione che partisse ovviamente dall'esperienza della fabbrica, e in particolare dall'esperienza di fabbriche che in quel periodo storico stavano chiudendo, stavano licenziando, stavano facendo appunto gli esuberi, casse integrazioni, c'era insomma una forte crisi industriale nell'area milanese. Questa attenzione, diciamo, al punto di vista di chi la fabbrica la conosce dall'interno, probabilmente mi ha reso più sensibile nel momento in cui ho visto appunto proliferare invece queste narrazioni di dinastie imprenditoriali, dove il punto di vista del soggetto operaio è sempre cancellato, è sempre dimenticato, è sempre messo da parte. Probabilmente mi ha reso ancora più sensibile e mi ha dato, l'aver fatto questo laboratorio mi ha convinto di poter riuscire, diciamo, a raccontare anche quel punto di vista, perché l'avevo visto prendere forma, no? Perché l'avevo visto mettere sulla pagina. Io non ho un'esperienza di fabbrica, non ho mai fatto l'operaio, e quindi chiaramente non è che serva l'esperienza diretta per mettere dei personaggi e un punto di vista in un romanzo. Fortunatamente, insomma, ci si può arrivare anche in altri modi, però sicuramente avere condotto, facilitato questo laboratorio, ma appunto facilitato in un altro senso, e aver frequentato queste persone mi ha convinto di poter riuscire a raccontare una storia, inserendo anche quel punto di vista in conflitto con il punto di vista invece della famiglia imprenditoriale. Queste sono state un po' le spinte. Grazie. No, l'avrei detto adesso. Ecco, in merito alla magia o interventi anche parasensoriali o di psicologia, ci sarà l'attacco psichico, quindi so, è annunciato nel programma, mi sembra che addirittura un famoso quotidiano importante della città l'abbia messo come appuntamento importante, gratuito, ingresso gratuito, quindi alle 6:30, ho già visto alcune sacerdotesse e sacerdoti muoversi, vestiti. Ecco, dove si tiene? Di fronte al cantiere. Di fronte al cantiere, perché l'attacco è rivolto al cantiere. Ecco, qualcuno che può spiegare bene. Non c'è nessuno druida qua. Alle 6:15. No, mi devo addirittura sedere. No, alle 6:15 ci si inizia a smuovere le energie, perché qua siamo al parco, tutti lenti, lo sappiamo. Quindi 6:15, che poi inizia alle 6:30. Però, cioè, non scappate, che ci si diverte. Grazie. No. Sì, è bene iniziare con un certo anticipo, perché bisogna cominciare a preparare le energie psichiche, a farne tesoro, per poi direzionarle nel modo migliore verso l'obiettivo, che diventa sempre più inquietante anche quello, e quindi davvero abbiamo bisogno di energie psichiche, poi avremo bisogno anche di tante altre energie, però le energie psichiche sicuramente ci servono. Io ricordo di aver partecipato a un attacco psichico, ormai credo nel lontano 94, nel quale facemmo tremare le torri di Kenzo Tang. Quindi penso che se abbiamo fatto tremare in una cinquantina di persone le torri di Tang, forse stasera le palizzate del cantiere si alzeranno come un UFO e le vedremo scomparire tra le nuvole. Quindi confidiamo in questo, succederà, se ci crediamo succederà. A San Leo le bestie, prego. Sull'attacco psichico? Rapidissimo, ho una domanda strumentale perché stiamo qui da settimane e l'attacco psichico è cominciato. Ok, siamo qui da settimane e quindi siamo impegnati nella difesa di questo territorio. Ho una curiosità che mi è sorta adesso, non ho letto il tuo libro ancora, e abbiamo una personalità istituzionale che ha detto attraverso questo progetto vogliamo portare la bellezza al pilastro. Sarei curioso di sapere se, senza spoilerare, esiste una figura di questo tipo, semplice sì e no, nel romanzo, e comunque dove collocheresti nel sistema di cui prima parlavi un amministratore pubblico nella città di Bologna, ma potrebbe essere altro, altra città, che ci dice vogliamo portare un po' di bellezza, fermo restando il discorso sul colonialismo già fatto. Sì, nel romanzo tutta la famiglia imprenditoriale dei Mensa, fino a Riniero Mensa, quello che propone la rigenerazione del sito industriale negli anni 90 del Novecento, sono convinti di essere al servizio della bellezza e vengono celebrati anche per questo, che è una cosa che succedeva davvero. Ho trovato gli articoli di giornale con i Crespi, quando Silvio Benigno Crespi, che poi diventerà proprietario del Corriere della Sera, uno di quelli che ha costruito l'autodromo di Monza, insomma ne ha varie nel curriculum, quando costruisce una centrale idroelettrica sull'Adda, sotto al castello di Trezzo d'Adda, in un punto in cui il fiume fa una curva strategica, diciamo, per costruire una centrale idroelettrica, viene incensato dai giornali perché chiama a costruirne la facciata sul fiume non un geometra, diciamo, ma un famoso architetto che la decora con la pietra locale e che la trasforma in una specie di facciata di un palazzo che si specchia nell'acqua. E quindi lui, Crespi, viene lodato per il suo gusto, per la sua capacità di trasformare persino una diga, una centrale idroelettrica, in qualcosa di bello, di piacevole per la vista, che innalza l'animo, no? La bellezza spesso viene usata come foglia di fico, spesso è una degli ingredienti che vengono estratti dai luoghi per venderli meglio, no? Diventa una risorsa, soprattutto insomma con l'industria turistica questo succede. Nel romanzo l'amministrazione del comune sotto il quale insiste Mensaleri negli anni 90 è completamente succube ai piani dell'imprenditore. E, tra l'altro c'è una cosa che mi ha fatto venire in mente la domanda. Nei piani di Riniero Mensa, prima io indicavo questa ricetta, no? Per la riqualificazione del sito industriale, una ricetta buona per qualunque territorio, calata dall'alto, che oggi appunto avrebbe degli ingredienti magari un po' diversi, no? Oggi, dicevo, magari ci sarebbe un co-working, oggi ci sono altre parole, no? Che fluidificano, che ungono certi meccanismi e che sono tipici di queste ricette, però ce n'è uno che non cambia mai ed è l'ingrediente segreto. Così come nella ricetta del sacro latte c'è l'ingrediente segreto, così anche nella ricetta di Riniero Mensa c'è un ingrediente segreto, come nelle ricette della nonna, che tu appunto cercavi sempre di rifarle, poi non ci riuscivi perché c'era l'ingrediente segreto. Io devo dire che nella mia esperienza qui a Bologna, appunto di attivismo contro progetti come il Passante, le scuole Besta e vari altri, mi sono reso conto che c'è sempre questo ingrediente segreto, cioè anche quando appunto viene messo in scena lo spettacolo della partecipazione, anche quando i documenti presuntamente vengono squadernati sul tavolo, messi a disposizione, ti danno un sito dove puoi scaricare materiale su materiale, e ci metti una vita a leggertelo, a processarlo, eccetera, però c'è sempre un ingrediente segreto, cioè c'è sempre qualcosa che non ti viene raccontato. Io non so com'è, ma ancora, e mi sono occupato di parecchi di questi progetti, non ce n'è mai uno completamente trasparente, e la cosa straordinaria è che l'ingrediente segreto che non ti viene detto è quasi sempre l'ingrediente fondamentale, cioè quello che se lo togli poi crolla tutto, non si può più fare niente, no? Che spesso è un ingrediente speculativo, per esempio, no? Per cui in realtà tutto il progetto con i suoi brillantini, le sue parti verdi, le sue parti belle, è tenuto su economicamente da una speculazione che, se non si fa, tutto il progetto non si può fare. E quel pezzettino lì non te lo raccontano mai, ti raccontano il bello, ti raccontano il verde, ti raccontano tutto il resto, e l'ingrediente speculativo non viene mai raccontato, no? È sempre segreto. E quindi diciamo che in parte, per rispondere anche alla domanda di prima, nel romanzo non c'è solo appunto aver visitato villaggi operai, non c'è solo il laboratorio con i lavoratori metalmeccanici, c'è anche sicuramente la mia esperienza diretta di questi processi, soprattutto qui a Bologna, e di come funzionano queste promesse, no? Soprattutto in una situazione in cui le amministrazioni le promesse non sono proprio più in grado di mantenerle, insomma, no? Sanno benissimo di farle e di non poterle rispettare, ma le fanno lo stesso. Grazie a Mindue, grazie Giovanni, grazie a tutte le persone presenti, ci sono anche i libri qua per chi fosse disponibile, poi mi raccomando, dopo la facilitazione di Mindue, si è pronti per chi vuole partecipare all'attacco psichico. Con me questi tre cori. Il primo è relazione senza fuoco vero, ma solo mentale, mi raccomando, visualizzatelo. È importante che abbiate tutto in mente il fuoco della vostra rabbia e il fumo dei smog che ci aspettiamo in questi giorni. Ecco, respiratelo fuori verso questo cantiere. Mamma mia, l'attacco psichico sta per iniziare. Voglio che iniziate l'energia nelle vostre mani, sentitela, percepitela, assaggiatela, non negatela. L'energia fatta dal terreno, fatta dalla radice degli alberi, che ce la convogliono verso di noi, verso i nostri piedi, verso le ginocchia e anche la colonna vertebrale che ci ha annessi arriva verso le nostre mani, le nostre dita. La portiamo quindi il pugno fino alle nostre tempie e guardiamo ora con un forte e collettivo oh. Oh. Thank you. Thank you. riuscito ed è finito, andate in guerra di classe!